voce. Elisabetta Piccolomini legge L'edera di Grazia Deledda. Terza puntata. Anche Annessa era diventata più triste e taciturna del solito. Dopo cena Gantina invitò l'ospite povero ad uscire con lui. «Ora condurremo il cavallo da zio Castigu, dopo faremo un giro per il paese, lascia il portone socchiuso», disse ad Annessa. «No, davvero», ella rispose vivacemente. «Forse tu starai fuori tutta la notte, io chiuderò il portone e tu puoi prenderti benissimo la chiave». «Va bene, addio», disse Gantine, cingendole la vita con un braccio. «Tornerò presto, non dubitare». «Fa quello che credi», e la rispose respingendolo sgarbatamente. Oltre il cavallo di Paolo, i due giovani portarono via anche la giumenta del venditore di briglie, perché sotto la tettoia non c'era posto che per un cavallo. E condussero le due bestie nella stalla di un pastore che era stato per molti anni servo dei De Cherchi. Poi andarono in una bettola e finirono di ubriacarsi. Anche Paolo uscì col suo amico. Donna Rachele e la bimba andarono a letto, i due nonni chiacchierarono un altro po', Annessa finì di rimettere in ordine la stanza e la cucina e preparò il suo lettuccio. Ella dormiva sul canapè nella stanza da pranzo per essere pronta alle chiamate del vecchio asmatico. Quando Gantina era in paese, donna Rachele, per evitare ai due fidanzati l'occasione d'un pericoloso colloquio notturno, pregava Paolo o zio Cosimo di sostituire Annessa, e questa dormiva in una delle camere interne. Ma quella notte l'ospite povero doveva dormire in cucina assieme con Gantina e il pericolo era evitato. La donna preparò le due stuoie per il servo e l'ospite. Chiuse il portone, chiuse la porticina che dava sull'orto e portò via la chiave. In ultimo chiuse col catenaccio l'uscio della camera. Se Gantine tornava non poteva penetrare nella casa, di là del cortile della cucina. I due nonni si ritirarono, Ziu Zua si assopì. Allora Annessa spense il lume, accese la lampadina da notte, ma non si coricò. Non aveva sonno, anzi... pareva insolitamente eccitata e i suoi occhi, ora che nessuno la osservava, brillavano d'una cupa fiamma, avidi e cerchiati. Uscì nell'andito, spalancò la porta che dava sull'orto e sedette sullo scalino di pietra. La notte era calda, tranquilla, rischiarata appena dal velo biancastro della Via Lattea e dalle stelle vivissime. Davanti ad Annessa l'orto, nero e tacito, odorava di pomidoro e di erbe aromatiche. In fondo all'orto cominciava il bosco, dal quale emergeva la montagna, col suo profilo enorme di dorso umano disteso sull'orizzonte stellato. I grandi alberi neri erano così immobili e gravi che parevano rocce. Ma la pace, il silenzio, l'oscurità della notte, l'immobilità delle cose pesavano come un mistero sul cuore di Annessa. Ecco, a momenti le pareva di soffocare, di respirare penosamente come il vecchio asmatico. Anche lei aveva capito. Paolo tornava da Nuoro senza i denari che da 3 mesi cercava disperatamente per tutti i paesi del circondario. La rovina era imminente. La casa, l'orto, la tanca, il cavallo, i mobili, tutto sarà messo all'asta, gemeva fra sé la donna col busto piegato fin quasi sulle ginocchia. Ci cacceranno via come cani affamati e la famiglia De Cherchi diventerà la più misera del paese. Bisognerà andarsene via come i mendicanti che vanno di paese in paese, di festa in festa. Sospirò profondamente. Ricordava la sua origine. Era meglio che mi avessero lasciato proseguire la mia via. Non avrei sofferto così, non avrei veduto quello che ho veduto, quello che vedrò, che cosa verrà, che accadrà di noi. Donna Rachele ne morrà di dolore. Lui, la sua fine. Egli lo ha già detto, la sua fine. No, meglio. Si sollevò, rabbrividì. Paolo aveva minacciato di suicidarsi. E questo pensiero, questa ossessione, e l'idea che il vecchio asmatico teneva sotto il cuscino un fascio di cartelle di rendita e per avarizia, per rancore contro il giovane vedovo, si ostinava a non sborsare un soldo per salvare la famiglia dalla completa rovina, davano ad Annessa una febbre d'angoscia e di odio. Vecchio scorpione, riprese minacciando tra sé il vecchio asmatico, io ti farò morire di rabbia, ti farò morire di fame e di sete. Guai a te se ciò che prevedo s'avvera, guai. Tu ci lasci agonizzare, ma io... Non finì di formulare il suo pensiero. Qualcuno apriva la porta di strada. Ella balzò in piedi, si volse, attese, ansiosa. Paolo entrò, la vide, chiuse la porta, poi s'avanzò in punta di piedi e guardò dall'uscio nella camera appena illuminata dalla lampadina notturna. Il vecchio, sempre sollevato e appoggiato ai cuscini, teneva gli occhi chiusi, il viso reclinato e anche nel sonno respirava affannosamente. Sicuro che Ziu Zhua dormiva, Paolo si avvicinò ad Annessa e con un braccio le cinse le spalle con un impeto di desiderio e la tremò tutta, con le mani abbandonate lungo i fianchi, gli occhi chiusi come svenuta. Si lasciò trascinare in fondo all'orto, verso il bosco. Ma quando furono laggiù, sotto l'albero nero ed immobile, la cui ombra conosceva il loro amore, ella si scosse, sollevò le braccia e si attaccò all'uomo con una stretta nervosa. Credevo che tu non tornassi, gli mormorò sul viso. Ti ho veduto così cupo, così triste. Invece sei venuto, sei qui. Mi pare di sognare, dimmi. Mi sono liberato dell'ospite, l'ho lasciato in casa di Prete Virdis, dove andrò a riprenderlo. Gantine ha la chiave? Sì, ho chiuso tutto, disse Annessa con voce velata. Dimmi. Niente ancora, ma non pensiamo a questo. E la baciò. Le sue labbra scottavano, ma c'era nel suo bacio un ardore amaro, la disperazione dell'uomo che cerca sulle labbra della donna l'oblio delle sue cure e delle sue tristezze. Annessa era intelligente e capiva i sentimenti di Paolo. Poi si lasciò baciare senza insistere nelle sue domande, ma cominciò a piangere. Era con Paolo e piangeva d'angoscia e di piacere. Annessa, egli disse quasi indispettito, finiscila. Lo sai che non mi piace vedere la gente triste. E tu? Sei forse allegro, tu? No, non sono allegro, può darsi, ma non sono disperato. Dopotutto, se i nostri beni saranno venduti come i beni di un impiccato, la vergogna sarà più sua che nostra. Tutti sanno che egli potrebbe salvarci, vecchio scorpione, maledetto avaro. Quando lo vedo, sento il sangue montarmi alla testa. Se fossi un altro uomo, lo strangolerei. S'animò, s'agitò, strinse le mani come per soffocare qualcuno. Annessa trasalì, asciugò le lacrime e disse con voce lamentosa: morisse una buona volta almeno, ma non muore, ha 7 anime come i gatti. Sono stato a Nuoro, raccontò poi il giovane. Ho cercato denaro in ogni buco, mi avevano indicato uno strozzino, un vecchio, nero e gonfio come un otre. Mi sono umiliato, ho pregato, mi sono avvilito, io sì, mi sono avvilito sino a pregare come un santo questo vecchio immondo, questo usuraio turpe. Niente. Egli mi ha chiesto la firma di Zua de Kerchi. Poi andai da un proprietario nuorese che mi guardò sorridendo e mi disse: ricordo ancora, tu eri nel seminario di Nuoro, eri un ragazzo che prometteva molto, e mi mandò via senza i denari. Poi... Ma perché ricordare queste cose? Ho subito tutte le umiliazioni inutilmente. Io, Paolo de Kerchi, e ho dovuto chinare il capo come un mendicante. Annessa chinò il capo, anche lei, umiliata e avvilita. «Non hanno più fiducia in te», disse timidamente. «Ziu Zua ti ha anche screditato, spargendo la voce che tu sei stato la causa della rovina della tua famiglia. Ma se andasse Don Simone, forse, troverebbe i denari». Paolo non la lasciò proseguire, le strinse la mano con violenza e disse a voce alta: «Anna, ti perdono perché non sai quello che dici. Finché vivrò io, nessun altro della mia famiglia dovrà abbassarsi». Ella tacque ancora, cercò l'altra mano di Paolo, se la portò al viso, la baciò. «Perché?» mormorò, quasi parlando a quella mano ora inerte e fredda. «Perché non cerchi ancora una volta di convincere Ziu Zua?» «È inutile», egli riprese con voce accorata. «Egli non farebbe che insultarmi ancora. Lo sai bene ciò che egli dice continuamente, lo sai bene, Annessa. Egli dice che vogliamo rovinarlo, che vogliamo assassinarlo». Ah, ella sospirò. «Tante volte ho avuto la tentazione di strappargli le cartelle di sotto al cuscino. Bisognerà fare così. Egli è capace di farci arrestare tutti, Anna. E poi io non sono un ladro, piuttosto mi uccido». Ella si appoggiò nuovamente a lui, spaventata e dolente. «Ecco che torni a parlare così. Paolo, non vedi come mi fai paura? Non dire così, non parlare come parlano i pazzi. Ecco come sei tu. Lasciami parlare, ho diritto anch'io. Paolo, ricordati, tu hai dato tanti dispiaceri ai tuoi nonni e alla tua santa madre, e ora vuoi farli morire di vergogna e di spasimo? Non dirla più, sai, quella cosa terribile, non parlarne più». «Ebbene, taci, non parliamone più. Ascoltami bene», e la proseguì sempre più agitata. «Devo dirti una cosa. Ricordati, Paolo, ricordati, quando i tuoi parenti volevano farti sposare, Gaderina Maiule era ricca, era di buona famiglia, e tu non l'hai voluta perché non era bella e era più vecchia di te. Ora sono passati molti anni. Tu non sei più un ragazzo capriccioso e Caterina Maiule non ha preso marito e ti vuole ancora. Sposala, Paolo. Tutto si accomoderà. Sposala, Paolo. Sposala. Se io fossi in te, la sposerei». Ella parlava come in delirio, soffiandogli sul viso il suo alito ansante, ed egli, a sua volta, teneva le mani abbandonate sui fianchi, il capochino, gli occhi bassi. Gli pareva di venir meno, di soffocare, di non dovere mai più uscire dall'ombra nera e pesante che lo circondava. «Rispondi», e la proseguì scotendo con le sue piccole braccia che parevano d'acciaio. «Dimmi di sì, ci hai pensato, vero? Non aver paura di me, Paolo, anch'io sposerò Gantine se tu vorrai, e ce ne andremo lontani, io e lui, e con te non ci vedremo mai più. Tanto, vedi, lo so, io sono nata per seguire una via di sventura, la sorte mi odia e mi ha gettata nel mondo per ischerno, come una maschera ubriaca getta uno straccio nella via. Chi sono io? Uno straccio, una cosa che non serve a nulla. Non prenderti pensiero di me, Paolo». Paolo l'ascoltava e taceva. Ella gli destava compassione e dispetto, e d'un tratto la respinse e mormorò parole crudeli. «Non ho mai creduto che io fossi da vendere, Annessa, ma forse è tempo di pensarci adesso, poiché non c'è altro rimedio. Chissà, può darsi che segua il tuo consiglio». Annessa tacque, spaventata. Sebbene Paolo la respingesse, si teneva aggrappata a lui, e solo quando egli ebbe pronunziate le ultime parole, aprì le braccia e cadde a terra come una pianta rampicante, priva di sostegno. Egli la credette svenuta e si chinò su di lei. «Che fai, Anna?» Ella gemette. «Lo vedi?» egli disse con rimprovero e sarcasmo, sollevandola e accarezzandola in viso come una bambina. «Tu stessa lo vedi come sei sciocca a dirmi certe cose? Tu mi umili sempre. E se non fossi tu a parlarmi così, non lo so cosa farei». «Taci, taci», ella riprese singhiozzando. «Io lo faccio per il tuo bene. Io sono la tua serva, e non dovrei far altro che tacere e ascoltarti in ginocchio. Tu hai ragione, Paolo. Sono sciocca, sono pazza. Certe volte ho idee strane, come quando si ha la febbre. Vorrei andare per il mondo, scalza, mendicante, in cerca di fortuna per te, per voi. Non sgridarmi, Paolo mio, cuore mio caro, non sgridarmi. Tu l'hai già detto una volta, che io sono come l'edera che si attacca al muro e non se ne distacca più finché non si secca. O finché il muro non cade, mormorò l'uomo col suo accento doloroso e beffardo. Basta, non parliamone più. Caterina Maiule si sposi qualche vecchio mercante di porci, se non ha potuto trovare altri. Io mi tengo la mia piccola Anna e basta. E ora vado a cercare Ballore Spano. Ricco, lo sai. Forse mi presterà lui i danari per impedire l'asta dei nostri beni. Voglio tentare. Dammi un altro bacio e sta allegra. Ella gli porse le labbra tremanti, bagnate di lacrime, e ancora per un attimo entrambi dimenticarono tutti gli affanni, le miserie, gli errori che li separavano. Poi egli uscì di nuovo, e di nuovo ella sedette sul limitare della porta. Non aveva sonno. E l'idea di doversi chiudere nella camera dove ogni tanto si sentiva il gemito del vecchio asmatico le dava quasi un senso di terrore. Ma alla sua inquietudine, al suo affanno, si mescolava adesso una vaga ebbrezza. Ella sentiva ancora il sapore delle labbra di Paolo e davanti a sé non vedeva che la figura di lui, triste, beffarda e voluttuosa. Questa figura d'altronde le stava sempre davanti, la precedeva in tutti i suoi passi come la sua ombra. Da anni ed anni ella viveva in compagnia di questo fantasma che solo la presenza reale di Paolo faceva dileguare. Ella non era una donna ignorante, incosciente. Aveva studiato fino alla quarta elementare e dopo aveva letto molti libri, tutti i libri che Paolo possedeva, ed egli era stato il suo migliore e più suggestivo maestro. Le aveva insegnato tutto ciò che egli sapeva o credeva di sapere. Le aveva dettato le costellazioni e spiegato l'origine dell'uomo, il mistero del tuono e del fulmine. L'aveva eccitata col farle conoscere romanzi d'amore e infine l'aveva convinta che Dio non esiste. Ella conservava due o tre romanzi letti nella sua prima gioventù. Li teneva tra le sue cose più care, giallognoli e scuciti come libri sacri, letti e riletti da molte generazioni. E sapeva quasi a memoria quelle storie d'amore e d'angoscia, come leggende familiari. Allora, nei tempi lontani della sua adolescenza, la famiglia era ricca e potente, servi e serve, mendicanti, bambini poveri, donnicciuole, ospiti dei paesi vicini, cavalli, cani, cinghialetti e muffloni addomesticati animavano la casa. Un pescatore di trotte veniva tutti i giorni a portare la sua pesca. Regali andavano, regali venivano, qualche ospite si indugiava in casa dei Cherchi 4-5 giorni e la tavola era sempre imbandita. E mentre il cortile era sempre pieno di mendicanti, in cucina si nascondeva qualche povero vergognoso che mendicava in segreto e al quale donna Rachele era lieta di fare la carità. Annessa allora era servita e riverita dalle persone di servizio come una signorina. Più che figlia d'anima, era considerata come figlia vera di donna Rachele ed ella teneva le chiavi e apriva anche il cassetto ove don Simone riponeva i denari allora abbondanti. E quante volte dopo si era pentita di non aver messo da parte qualche somma con la quale aiutare adesso i suoi benefattori caduti in miseria. Ella aveva partecipato a tutte le vicende della famiglia in quella casa dove il destino l'aveva gettata come il vento di marzo getta il seme sulla roccia accanto all'albero cadente, ed era cresciuta così come l'edera, allacciandosi al vecchio tronco e lasciandosi travolgere dalla rovina che lo schiantava. Seduta sul limitare della porta, ombra nell'ombra, ella si abbandonava ai ricordi. Ricordi vaghi e tristi, con uno sfondo incerto e malinconico, come quel cielo notturno che finiva davanti a lei sopra la montagna addormentata. Ma alcuni di essi brillavano e vibravano su questo sfondo, simili alle stelle filanti che di tanto in tanto pareva si staccassero dal cielo, stanche di tanta altezza serena, per scendere sulla terra, ove si ama e si muore. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.